Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero con un numero quale? Perché se il numero io parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano, no. Se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud, non ma, ecco, ma che cosa fa? Non fate vade, niente al sud e risponde con volgarità alte. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto, ma come si permette? Ma come si permette? Ma come se vada a lavorare lei, vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Va ora in onda un grande racconto popolare a cura di Enzo Spatalino. Vi racconto quello che mi è successo 3 anni fa. Io stavo ritornando nella mia vecchia televisione, mi raggiunge una macchina dei carabinieri con tanto di lampeggianti, paletta. Sembrava quasi che io scappassi da una rapina in banca. Mi hanno inseguito per 6 chilometri. Non mi hanno fermato subito, ma loro mi avevano rincorso perché sapevano che ero Enzo Spatalino. Dovete no. sapere che adesso subito vedono attraverso la targa il proprietario. Quindi loro, 6 chilometri prima, all'altezza dell'infrazione, diciamo, erano in un angolo. Non mi hanno fermato subito, hanno visto chi ero. Oh, Spatalino, gliela facciamo pagare! Non vi dico la durezza, c'era il capopattuglia e un altro terchiato dalla faccia cattiva. Ho capito subito che mi odiavano a pelle, mi fanno aprire perfino il bagagliaio e io dissi, guardate che sono un giornalista, non ci interessa, gliela facciamo pagare. Gliela facciamo pagare. Non mi hanno fermato subito, hanno visto chi ero. Oh, Spatalino, gliela facciamo pagare. Parenzo ha rifiutato Pompini da... Nell'ordine, numero uno. Da Susanna. Secondo. Da Simona. Ma cosa vuoi? Terzo. Da Efebal. Davide, un po' di educazione. I love my radio. È gente pazza. Certamente. È normale. Barisoni gay. Beh, quello ci vuole sempre. Monte Rosa 91 20 149 Mailand, cioè Milano, per l'ultima puntata. Il collegamento dai disastrati studi della 7, da un appartamento di merda, diciamo la verità, l'ultima puntata, lo possiamo dire, da un appartamento di merda fornito alla 7, David Parenzo, applausi. Una cosa incredibile. Allora, mi dicono che hai presentato formalmente un'autodenuncia, la prima cosa che vogliamo dire è questa. Sì, questo hai formalmente presentato, sì, presentato ai carabinieri alle 19.15, sì, la leggerai. Sì, no, non ai carabinieri, alla polizia, meglio la polizia, sì, di questi giorni. Questo è la polizia, meglio, così, per non sapere né leggere né scrivere. Ah, sai com'è? La polizia, intanto alla polizia, poi vediamo anche i carabinieri. Intanto alla polizia. Vabbè, che vuoi dire? Oltre a questa roba qua, che intanto vuoi dire? grazie perché il dottor Gigliani, insomma, la rete, la set, mi ha consentito di citare persone in questa trasmissione di trasmettere da qua. mi hanno messo nelle migliori condizioni per poter lavorare a questo programma, che è un programma che distrugge il paese. Quindi doppiamente grazie, perché nonostante tutto, nonostante voi sappiate, cari manager, cari dirigenti, che questa è una trasmissione disastrosa e che oggi per fortuna è il suo epigono. Beh, è il suo epigono, quello vediamo. Dico soltanto grazie. Grazie anche a voi della Confindustria che da 10 anni tenete acceso questo programma. Io però vi chiedo, è necessario? Serve? Certo che serve, io tra poco avrò la quarta figlia, quindi sicuramente serve. Ma a che prezzo tutto questo? A che prezzo tutto questo per il paese? Io è vero, grazie a questa trasmissione ho mangiato e ho dato da mangiare e ho fatto studiare i miei figli. Però forse il paese adesso viene prima, il paese viene prima. Esatto, il paese, ed è forse venuto il momento di dire basta. Forse. O forse no, vedremo. No. Allora ragazzi, la questione è molto semplice per chi lo vuole sapere, poi non ce ne frega un cazzo e andiamo oltre. Questa trasmissione e non parla dei carabinieri. Aspetta, questa trasmissione è messa in palinsesto per il giorno 7 settembre, dunque una settimana dopo l'inizio del palinsesto di questa radio. Ecco, è già questo perché, è un giallo. Perché non me ne frega un cazzo di iniziare il 31. Cioè, un po' perché il signor David Parenzo è ancora impegnato una settimana alla 7, un po' perché non me va. È messa in palinsesto, poi vediamo nelle prossime settimane se mi va, se non mi va. Non sono obbligato, nessuno di noi è obbligato a fare nulla di quello che però non vuole fare. Però questo è un giallo. No, già, ma non c'è giallo. Nessun giallo, perché è messa in palinsesto. No, c'è da capire perché. Sette perché non perché? Mi va e per fortuna perché? Posso fare il cazzo perché? Che mi pare. Posso dire inizio al 7, mi posso permettere di dire inizio al 7 settembre prima. Ma perché? Secondo te? Perché? Secondo, perché? Secondo. Perché cosa? Perché? No, perché non c'è perché nessun perché. Ma non c'è nessun perché. Perché. Comunque, vabbè, ragazzi, vediamo nelle prossime settimane. È messa in palinsesto, poi vediamo. Fondamentalmente non mi va. Fondamentalmente non mi va. Non mi va per una serie di motivi, una serie di cose che non sono cambiate. Numero uno, l'eroe del giorno è quel ragazzo di 24 anni multato per 5.000 euro. Per 5.000 euro, dico 5.000 euro, perché in piena notte, al termine di una rassegna cinematografica a Bologna, basilica a fianco della Basilica di San Petronio, Piazza Maggiore, maxi schermo, sotto le stelle del cinema, a un certo punto con il suo computer, con il suo piccolo PC, non so se fosse un PC, un Apple, cazzo che è, manda uno spezzone di un film porno. Una vecchia si incazza, chiama i carabinieri, questi carabinieri lo denunciano per un reato che pensavo fosse sparito. Cioè, articolo 726 del codice penale, atti contrari alla pubblica decenza. Perché roba è, questo qua è un eroe assoluto. Sta facendo già una raccolta di soldi per pagare la multa, 5.000 euro per un piccolo spezzone di film porno. Ma i vecchi che erano là davanti erano estasiati da questa roba qua. Questo è un eroe assoluto, un artista, un personaggio che andrebbe premiato dalla città di Bologna. Invece tu no. Tu mi hai detto in privato, questo qua è un porco, no, che non si doveva permettere di mandare in onda questo film. Come no? No, come questo no? Non l'ho mai detto. L'hai detto a me. Considero. No, no, questo. Ma quando te lo... Ma io ti querè. Ma te siamo matti. Dai, siamo. Su. Per una vecchia che in stato di agitazione ha fermato una pattuglia. Ma sti cazzi, la vecchia alle 3 di notte si fa i cazzi suoi e va a casa a dormire. No, non rompesse i coglioni. Questa qua è Efe. Stasera vuoi chiamare il turco, mi sembra, no? Mi sembra che vuoi chiamare il turco stasera per vedere. Sì, tanto rispondo, prova a chiamarla. Prova già adesso, prova già adesso. Ma così, adesso, un passo, proviamo. Guarda, due squillini al turco. Sì, due squillini al turco non fa mai male. È che sì. Prova. Ce l'abbiamo il turco, il numero del turco, ce l'abbiamo a disposizione il numero del turco, andiamo avanti. Ce l'abbiamo o andiamo avanti il numero del turco? Aspetta un attimo. Guarda. Aspetta che arrivo. Eccoci. Ecco, uno. Okay, eccomi. Ha ancora meno da fare. Ha talmente ancora meno da fare che al primo squillo, in genere almeno era al quarto. Qua siamo al primo, riprova ancora? No, ma adesso se ne accorta, no. Adesso se ne accorge che siamo noi. No, riprova, capito, ma adesso se ne accorge che siamo noi, non vale ma più. Ma non ha niente da fare, nulla. Ma non è vero. Ma c'ha centinaia di migliaia di euro di soldi in nero guadagnati, dai. Una poraccia mezza matta. Ecco. Non è registrata, era lei sul serio, questo senza manco uno squillo, direttamente così. Sì, non ormai. Allora, Ornella Mariani, voi non sapete chi è Ornella Mariani, una grande polemista, una signora che ogni tanto va nelle televisioni locali, è molto incazzata con la Lamorgese, con gli immigrati che arrivano, eccetera, eccetera. Sentiamo. questa la Morgese per esempio, che manda i droni a inseguire la mamma col bambino sulla spiaggia, o un runner che corre per conto suo e poi tiene in circolazione libera un sacco di gentaglia ufficialmente infetta. Ma a che gioco stiamo giocando? Questi sono i servi del più abietto mondialismo, il più abietto, il più mostruoso, il più abominevole. Questa è gente che si accinge a rapinare col pretesto del Covid l'innocenza dei bambini, manderà i bambini fra un mese a scuola con gli scafandri, ma sono impazziti. Questa è gente che sta alienando le relazioni sociali, le relazioni umane. Questi sono dei pericolosi criminali. È un presidente che consente alla Morgese, senza chiederci spiegazioni, di far imperversare sul territorio gente che viene ufficialmente malata, che rifiuta le quarantene, e rifiutano le quarantene, e noi siamo stati 3 mesi agli arresti domiciliari. E siccome questo non è solo uno schifo fine a se stesso, ma è uno schifo con risvolti criminali, perché sottende ad un piano preciso, questi vanno cacciati, come disse Pertini. C'è una motivazione anche ad armarsi di pietre e di randelli quando la democrazia è in pericolo. In Italia la democrazia non è più in pericolo, la democrazia in Italia è fottuta. Secondo te andrebbe arrestata questa signora Mariani o no, caro David? Cioè, come la giudichi? Guarda, come la giudichi, no, questa signora Ornella Mariani? No, non andrebbe. Bisogna arrestata cacciarli in con le pietre, dice. In Italia arriva gente infetta, che però è vero. Sì, andrebbe. No, andrebbe semplicemente intanto identificata, portata in una struttura adeguata, seguita da molti infermieri e da molti medici. Ma questa è la circolazione poi, delle libere opinioni. E poi è la circolazione delle libere opinioni. Mai mandata in onda, cosa che invece viene fatta. Ma scusa, che differenza ogni c'è? Maledetto tra... giorno. Sì, ho capito. Ma che differenza c'è tra la signora Mariani e un ministro che va in una trasmissione televisiva? E quale trasmissione televisiva? No. Non lo voglio dire. No. Non lo voglio dire. Un ministro dell'istruzione. No. Che dovrebbe essere una persona seria, che va ospite di una conosciuta trasmissione televisiva che va in onda su una rete, che scorrendo i canali va dall'1 al 6 e poi arrivi al 7. A un certo punto arriva un ministro, ministro dell'istruzione, che viene praticamente presa per il culo, svillaneggiata dai conduttori, che la stalkerizzano, praticamente la utilizzano a loro piacimento, facendola roteare sui famosi. Sui famosi banchi, non so che cazzo è, le sedie con le rotelle. Ora, io ti faccio fammi sentire chiudere, questa azzolina. Fammi sentire questa azzolina che si siede nel banco. I banchi mobili. Ti pare possibile che solo in Italia si pensa che siano indispensabili bellissimo, per tornare a scuola? Mobile, il banco dai, mobile, bellissimo, con tutti che si muovono, nessuno che sta fermo in classe. Dai, aspetta, che è bellissimo. Freccero, prima fammi ascoltare l'azzolina, poi dice la sua sui banchi mobili. No, dice la sua. Ma no, ancora il ministro, dai. Ma i ministri non devono. Ma dai, il ministro noioso. Non si fa il ministro, dai. Prego, ministra, una scuola di Ancona. Non è difficile, come vedete, sedersi e lavorare. Tra l'altro, sì, ero io anche avuto qualche difficoltà. Passerei un po' più. Sì, un po' più. Va bene, è io più sono comodo. Più abituata a stare sedendo. No, scusi, ma scusi, se uno ha il Rocci, è presente il vocabolario Rocci, greco, non c'entra. Sì. Qua. Ci entra il Rocci qui. Sì, il Rocci non c'entra. Sì. Ma voi siete malpensanti proprio. Sarebbe troppo bello se questa fosse l'ultima puntata. Avete dato voce ai peggiori subnormali. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare. E con il voucher vacanza sei nostro ospite 2 notti su 3 in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero. Montagna o colline, laghi o città d'arte. I 1000 volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le 2 ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. La Zanzara. Trans brasiliano nella caserma. Siamo al top, siamo al top. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Capezzoni, capezzoni. Oh Parenzo, certo che terminare la stagione e forse la trasmissione con questa nomea da porco che ti rimane addosso non deve essere il massimo. Ti converrebbe ricominciare, che hai modo di provare a smentirci, perché in effetti la faccia da maiale ce l'hai, c'è proprio la faccia di lui che si ammazza di seghe. Ciao Parenzo. Via! Da questo canale. For AIDS or cancer, is there any remedy? Bin Laden still alive? Who killed John? Noi. Oh, a proposito, non ci può essere ultima puntata senza la presenza anche virtuale del professor Meluzzi, naturalmente, del Pop Meluzzi, no, come fermo, lo chiami prima tu. Prima c'è Paolo Ruffini, prima c'è Ruffini. Dimmi, mandami in onda Ruffini. Questo è il concetto fondamentale. Oggi, ultimo giorno della Zanzara, c'è soltanto una cosa più divertente della Zanzara. La libertà. Fermi tutti! Molto bella questa cosa, è molto bella. C'è solo qualcosa di più divertente, cioè dire la libertà. La libertà. Paolo Ruffini, Paolo Ruffini. Meluzzi! Vogliono far passare la pedofilia come normale. Ma dove? Io vorrei capire, però proprio nessuno. Amico mio Meluzzi, ma io nessuno. Ti stimo pure. Ma perché amico tuo? No, ma perché come lo conosco, stimo? Lo stimo un po'. Come lo stimo? Ti stimo? No, come ti stimo? Ma cosa dici? Ma perché dici ti stimo? Cos'è che stimi di Meluzzi? Ma sì, cosa? Ma lo stimo perché è una persona. Ma che cosa? Che è un pope e lo hanno sputtanato gli altri pope del mondo che gli hanno detto che non è un pope manco per il cazzo, che si è autoproclamato tale. Ma quelle sono dice fregnacce su qualunque di cosa lo stimi? Ma una persona libera alla fine, una persona che pensa anche delle cose. Libera no? Di dire cazzate. Ma non lo so, non mi interessa. Mi sta simpatico. Posso dire non che mi sta simpatico Meluzzi? Non lo posso no, nemmeno dire. No, non lo posso dire. No, no. Comunque, però, sì. Nonostante questo, io no. Nonostante sì. Questo, no. Nonostante questo, nessuno vuole far passare la pedofilia come normale nel mondo. Nessuno, no. Amico mio Meluzzi, nessuno, ti giuro, nessuno. Se lei mette una rana nell'acqua fredda e mette la pentola sul fuoco, la rana si bolle, che si scalda piano piano. Vabbè, allora. Che prima la pedofilia è una mostruosità, poi la pedofilia diventa una malattia, poi diventa una devianza. Poi diventa una cosa che in qualche caso è ammissibile, poi alla fine diventa un comportamento normale, poi alla fine diventa un comportamento che se non ci si adegua è malato lui. Questo si chiama finestra di over. E questo è una cosa che ha detto pure da noi, ma perché proprio la pedofilia? Come. Vabbè, comunque. Senti, senti sul vaccino, senti. Non fa bene, oh, sono contento. Io certamente dirò di no, ma io sono talmente vecchio che per piantarlo nel mio culo dovranno venire. E io li aspetterò ma con chi un lo vuol fare? Caccia, capito? Dopodiché vedremo, mi metteranno al manicomio. Cioè, dice che aspetterà quelli che vogliono mettergli il vaccino nel culo con il fucile. Con il fucile. Ma nessuno con gli il vuol fucile. Mettere niente a lui, nessuno gli vuol mettere niente a lui. Nessuno. Preferisco morire prima di avere un chip di Bill Gates nel culo. Però qui c'è un cortocircuito. Bill Gates, i chip e qualcuno che vuole metterlo nel culo. Sì. Forse, ecco, forse quest'ultimo elemento andrebbe un attimo valutato dal punto di vista psicanalitico. Forse quest'ultimo. Ho 65 anni, ho vissuto una vita combattiva, non sono così affezionato alla mia vita biologica perché penso che la vita debba meritare di essere vissuta. E per vivere in un mondo di zombie e di schiavi con un microchip di Bill Gates infilato nel culo preferisco morire. Intanto Taormina ha presentato una serie di denunce. Pure. Ho presentato una serie di denunce alla Procura denunzie, di Roma con le quali ho lamentato quello che è accaduto come serie di errori madornali consumati nella gestione dell'emergenza del coronavirus. Ma secondo te come reagiscono i magistrati quando ricevono una denuncia di Taormina? Qual è la prima reazione secondo te? Cioè strappare e buttare nel cestino? Mettono, qual è la prima reazione? Si mettono una, la pre, leggono con due mani, sì. Poi buttano il fascicolo per terra e mettono la mano destra in faccia, si mettono e muovono la testa dicendo oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Capito cosa fanno? Hanno le due mani sul fascicolo, leggono Taormina, buttano il fascicolo e poi prendono la loro testa tra le mani e la muovono a destra e a sinistra gridando oh mio Dio, oh mio Dio. Franco Dascoli, Franco Dascoli, Franco. Chi sei? Dimmi, dimmi, dimmi. Mi senti? Sì, dimmi, dimmi. Io ti volevo parlare, già ho chiamato altre volte, del profumo, della flore, così parola non fu mai detta bene, sì. dei piedi delle donne. La flore dei piedi, amico mio, lo dici a me, sfondi una porta aperta. Lo so, ma è l'ultima puntata, parlare, volevi ricordare questa cosa, che è uno dei classici altro, di questa trasmissione, va benissimo. Altro, perché anche del sesso con i piedi. No, ma il sesso con i piedi. La situazione è fantastica. Sì, però è un altro quando discorso. Quando una donna sì. Lo so, dopo è una branca che varia. Ma a te cosa piace di più? Cosa piace di più? Il profumo, la flore, l'odore anche dei piedi un po' sporchi, anche dei piedi un po' sporchi. Hanno quella flore, proprio quel termine lo vedo da te perché è molto bello, buono, mamma mia. Simone da Cuneo, Simone da Cuneo, Simone, dimmi, dimmi, dimmi Simone, dimmi. Non c'è Valerio da Napoli, dai, anzi Enrico da Roma, Enrico da Roma. Bello, ogni volta che non c'è un ascoltatore io sono Valerio, contento, meno Valerio, male che dimmi, non c'è. Chi è? Valerio male. Enrico, Valerio Enrico, vai. Dai. Enrico, dimmi. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Lorenzo, volevo dire una cosa, ma a questo punto, guardando tutti i fatti, no? Ma non è che Salvini tante volte ci potrebbe avere ragione sul fatto che stanno... spargendo il virus a rotta di collo, ti spiego il perché. Ma chi sta spargendo il virus? Chi è che sta spargendo, sta spargendo nessun allora, virus? Ma ti pare, ma che convenienza c'è? Adesso, oggettivamente, uno può essere anche complottista, tutto quello che vuoi, ma chi è che interessa a spargere il virus? Il governo. Non è che interessa a spargere il virus, attenzione. Ma allora, ho capito, vorrebbe quello che ha detto. I soldi che verranno dall'Europa verranno stanziati l'anno prossimo. Allora... Fino ad allora loro vogliono mantenere. Determinate, l'Europa vuole mantenere in Italia determinate persone al governo. Perché ma che non possono mandare Salvini. Ma tu dici più emergenza c'è, più emergenza c'è. Più rimane Conte. Tu capisci qual è Parenzo, qual è la cosa, il ragionamento? Cioè, più emergenza c'è, più il governo si tiene in piedi. Dunque, più Covid viene nessuno vuole sto governo. Dunque, più Covid c'è in giro, più il governo resta, dici tu. Dunque, il governo prende i clandestini, li porta qui per spargere il virus e dunque per tenersi in piedi. Questo è il ragionamento di Enrico, giusto? Sì, secondo me sì, a questo punto sì, perché allora, non Parenzo, giudizio finale, Enrico è un disturbato? Enrico, che cos'è? Uno che ha un'opinione o è un disturbato? Non ha un'opinione, Enrico è una persona che io per fortuna non sentirò mai più. Fermo là. Mai più. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Gottardo non è nulla, Gottardo è un ammasso di carne che cammina su due scarpe e con una lingua lunga che non ha escretiriata già come parla. E pensa a quelli che ascoltano la tua musica di merda come si devono sentire. Vergognati uomo di merda, stai zitto, uomo di merda, stai zitto, uomo di merda, stai zitto. Almeno la mia voce non fa cagare come la tua quando canti, poveraccio che non sei altro. Senti che voce del cazzo che hai. Si sta d'infama, mo, si sta d'infama. Senti, Cucciani, se tu lo butti fuori sta merda, vengo io a buttarlo fuori. Mi dà fastidio perché contro gli italiani. Spargi solo odio e note del cazzo. Bile. Che cazzo c'entra la mia musica? Cosa c'entra? che spargi solo odio e note del cazzo. Buongiorno complottisti, come state? Oggi ci facciamo una cultura. Parliamo della Bibbia. Volevo dire una cosa intelligentissima e interessantissima, ma poi ho pensato che oggi è venerdì 24 e voi chiudete al posto del 31, che è un venerdì e non si capisce per quale cazzo di motivo ci dovete mangiare una settimana di zanzara. Andate a fare in culo, tutta colpa di Baresoni probabilmente. Vaffanculo, vaffanculo. 24 dovete chiudere, pezzi di merda, non il 31 che è giusto in chiusura venerdì. No, il 24, una settimana prima. Siete come gli statali che vi mangiate i giorni, pezzi di merda. Tanto voi venite pagati lo stesso, no? E tutta la popolazione che avete reso famelica della vostra trasmissione, che fine fa? Siete degli stronzi, mi aspetto almeno che ad agosto aprite una settimana prima e non a settembre, pezzi di merda. E il peggiore chi è? Sapete chi è? Parenzo, il signor Parenzo, che comunque per quel mese che lavora fa pure il piangino. Oh, ma io c'ho in onda, c'ho Telese. Ma vaffanculo, va. Dunque ci siamo, oggi potrebbe essere l'ultima giornata di questo grande baraccone che è la Zanzara. C'è tristezza anche qua su dal Belgio e mia moglie qui accanto a me ha un messaggio da rivolgere a tutti gli ascoltatori. Cosa vuoi dire? Allez vous faire enculer, bande imbécile. Eccoci, non ha bisogno di traduzioni. E che cos'è? Le buffere anculè, banda imbecille. Banda di imbecilli, andatevi a fare. Banda di imbecilli, ecco, se si potesse isolare banda di imbecilli, andate a farvi fottere, credo che sia un degno epitaffio per la chiusura di questa trasmissione. Epigono, come hai detto prima. Epitaffio. Epilogo. Sì, cosa ho detto prima? Epigono, credo. Cosa ho detto prima? Epigono, non so. Epilogo. Allez vous faire enculer, bande imbecille. È un epitaffio finale, è un epitaffio. Allora, ragazzi, è un epilogo, la madre di uno dei poliziotti, quello che si era fatto non so quante macchine, soldi, eccetera, eccetera, dice nel e lui mirino, non dice niente. Nel mirino, e lui non no, dice no, niente. Che, nel mirino perché è napoletano. Non ne ha parlato, è un'ora di trasmissione, non nel ne ha parlato. Nel mirino amici. Perché è napoletano. Ma così dice la madre. Napoletano, nel mirino perché è napoletano. La... E lui zitto. E lui è un zitto, bravo ragazzo, è stato zitto. Tutto ingigantito. Sì, i soldi aveva vinto al Super Enalotto. Poi sì, alla fine dice ottimo. Ma se è colpevole dovrà pagare. Vabbè, ho capito, dai, grazie al cazzo. Altra notizia. Una ventunenne americana, una ventunenne americana. Commentare. Senti questa roba qua. E lui non commenta. Ma che lui cazzo non commenta. Devo commentare? Ma cosa commenta. Devo commentare? Commenti sempre tutto, questo caso non lo commenti. Interessante. Ma figuriamoci, però. Una ventunenne americana lascia il suo posto di lavoro sicuro per realizzare il suo grande sogno, girare video in cui fa finta di essere un cane e postarli su OnlyFans, TikTok, eccetera. La realtà è che questa qua guadagna $100,000 al mese. Pare che guadagni $100,000 al mese per fare il cane su OnlyFans. Per fare il cane sui social, ti rendi conto? Il cane. Potrebbe venire in mente alla signora Martani, però, secondo me, di fare il cane. Appunto. Di fare appunto. Il cane su OnlyFans. Alessio da Pescara, vai. Alessio, dimmi. Ciao. Dimmi Alessio. Ascolta, dimmi. Volevo dirti che intervenendo rispetto a quel tizio che ieri. Diceva che un certo tipo di reati viene commesso prevalentemente al sud. Beh, io credo che sia vero, ha detto una cosa anche banale. Però attenzione, perché per esempio ci sono delle statistiche che dicono che i parricidi, quindi gli omicidi tra padre e figlio. Sì, amico, ma di che stiamo parlando? Ma questa qua è la Zanzara, non è il trattato di sociologia. Sì, cioè, non è la sociologia degli omicidi, ma che cazzo ce ne frega? Nord. Ma chi se ne frega? Ma è certo, ci sono più. C'è più gente a nord, sicuramente. Alcuni... In percentuale, Giuseppe, che cazzo dici? Allora, parlo di percentuale, non in dunque, numero assoluto. Dunque, e dunque, se si applica questa regola, si finiscono per dire delle cazzate. Cioè che al sud tutti commettono dei reati, al nord ma infatti tutti secondo mamma, me era una e infatti secondo me una gran cazzata, e infatti qua. Secondo me era una minchiata. Andrea da Gorizia, vai. Andrea da Gorizia, vai. Pronto? Dimmi. Pronto, ciao. Guarda che tu è una settimana che hai glissato un po' sull'argomento. Qua dovevamo avere una risposta risposta quanto prima, su sta benedetta zanzara, se va avanti o meno, ma soprattutto, tra l'altro, ce l'ho con l'amichetto tuo che sta a Roma, col signor Parenzo. Ciao, sì. David. Sì. No, volevo semplicemente... Buonasera, grazie per aver chiamato. Ciao, ciao, caro David. Grazie. Sì, volevo semplicemente dire lui, esatto, ma secondo te, sì, vaffanculo che te, ma secondo te ti sembra normale, grazie, che noi persone... Ok, a noi persone adulte decidete di togliersi la zanzara, va bene, no? Ma pensa ai ragazzi, pensa a un ragazzo di 12 anni, pensa a una ragazzetta di 12-13 anni che cresce senza ascoltare la zanzara, ma ti sembra giusto, ti sembra? No, non lo so. No, amico mio, no, il problema è molto semplice, e lo dirò anche dopo, eccetera, eccetera, lo dirò. E qui siamo messi in palinsesto il 7 settembre, quello che è, ma non... Sì. Però sì, poi, sentito, poi vediamo, vediamo che succede, dai, vediamo. Però non ragionate con la pancia, non ragionate con la pancia, mi raccomando, dovete ponderare queste scelte, che dopo non si torna più indietro, mi raccomando. È vero, che ce lo dice lui, Andrea, che me lo dice lei, dai, su. No, lo so. Walter, lo so, da Trieste, dai, Walter, dimmi. Sì, ciao Cruciani. Senti, io volevo dire a Parenzo che a prendere in giro il professor Meluzzi ci fa anche una figura magra, perché i suoi rabbini non è che facciano una scuola come fanno i cattolici, vengono nominati da altri rabbini e a volte addirittura da altri fedeli. Ma che c'entra? Quindi, scusa, non ho capito. Che c'entra col Pope? Non ho capito. Che si sia autonominato non è proprio tutta sta grande differenza rispetto ai rabbini. Non credo che i rabbini si autonominano. Adesso, no, posso, no, vengono posso, nominati, no, possono ma essere da, lei, nominati lei, da non, altri rabbini, scusi, scusi, oppure scusi, anche scusi, solo da fedeli. Ma posso chiederle gentilmente una cosa? Lei si occupi delle stronzate che sono di sua competenza. Non questa entri in campi che non le appartengono. No. Ma quale bisnonna? Ma israelita non si dice la bisnonna del trisno. Ma lei perché chiama? Ma perché chiama? Allora, perché mi mandate ai matti anche l'ultimo giorno? Perché chiama? Perché chiama per dire questa cosa? Lei non sa nulla dei rabbini, non sa nulla di come vengono nominati. In più telefona alla zanzara e già questo getta discredito su di lei. Ma scusa, lei non sa niente, non è un tema di interesse come vengono nominati i rabbini. Ma scusa, basta! Ma perché? Basta! Perché? Tu dici che il paragone tra Meluzzi e un rabbino è un paragone assurdo. È una vergogna assoluta. Io voglio che i rabbini di tutto il mondo, simile, di tutto il mondo, quereli, non è, non è si può paragonare. Uguale. Quello si è autonominato! E qui invece vengono ruminati da 2-3 fedeli. Hanno studiato. Mamma mia. Noi. Senti, io. Però, noi, guarda, appunto, è da approfondire questa cosa. Giuseppe da Reggio Emilia. Non è da approfondire niente. È un povero squilibrato questo qua. Anche loro autonominati, bisogna non vedere. Non si autonominano. Giuseppe. Studiano al collegio rabbino. Ma guarda, se vi tocca discutere con Giuseppe, questi qua. Dimmi. Ma guarda. Ah, no. Studiano in collegio rabbinico, dove il collegio rabbinico c'è, ma nelle parti del mondo disastrate dove si autonomia, è disastrato. È disastrato noi. Lei! Giuseppe da Reggio Emilia, vai Giuseppe. Noi, dimmi. Come fa quello? Noi, ecco, noi. Senti. Noi. Noi. Dimmi Giuseppe. Alessandro tutto, primo. Tutto. Dimmi. Appunto. Al secolo Alessandro, senti, Meluzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, antico orientale. E c'è la pausa, ricordatevi Giuseppe sempre che c'è Emilia. La pausa, ecco, perché la stronzata non regge e quindi c'è la pausa. Dimmi. Allora, risentitelo ancora. Me, numero uno, Parenzo dovrebbe far causa al suo personal trainer, perché è evidente che da quando lo vide a Modena qualche mese fa avrà preso se no 10 kg. Giusto, io gli darei, sì, questo consiglio. Sì, sì, sì. È spassionato. Una poi decina di kg l'ha presi, sì, una decina l'ha presi. Beh, direi proprio. Ma sì, poi? Poi? Come, figurati. Secondo, io volevo dirti sì, che sono di Reggio Emilia, ma in questo momento mi trovo in via Monterosa 91 20 149 Milano, sì, per un sit-in di proposta e non di protesta, perché per fare dovete, cosa? Dovete per far tornare. Per far dimagrire Parenzo. Vedremo fermo là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. I wouldn't stop moving if I could stop moving, Look out. Menagramo d'un menagramo. Dun, dun. Cruciani e Parenzo, brutti pezzi di merda, segaioli rotti in culo. Adesso vi farete 2 mesi di vacanza. Speriamo che quest'estate vi capiti un incidente. non dico che dovete morire, ma almeno uno stato vegetativo o un coma irreversibile, così vi togliete per sempre dalle palle. Ma come si fa? Ma io dico, a tua manca la dignità, tu non parli di dignità. Allez vous faire enculer, bande d'imbéciles. Sì, io vedo molto negativo. Se potete chiamare i carabinieri. Io non ho capito, questa denuncia, questa autodenuncia per partecipare al programma, l'hai fatta o non l'hai fatta? Cioè, Davide, sì, l'hai fatta o no? L'hai fatta? L'hai formalizzata? No, certo, l'hai formalizzata? Certo, formalizzare un programma come questo può finire soltanto con l'autodenuncia. Vado dalla polizia e porterò le carte, porterò i nastri, 10 anni, 10 anni di nastri. Ma come si fa anni? L'autodenuncia? Io mi autodenuncio praticamente. Sì, ma lì si dice, io sono colpevole, sono arrestatevi, sono colpevole perché per 10 anni ho contribuito alla distruzione di questo paese, non sono riuscito a frenare Cruciani, pensavo che il mio ruolo lì potesse in qualche modo arginare, invece sono complice, io lo confesso, sono complice a mio discapito. Intanto ho trovato, sì, ho capito, intanto ho trovato, mi sembra di aver trovato un fidanzato per la signora Daniela Martani. Eccoci Daniela, eccoci qui. Ciao Cruciani, ciao. Allora, Lorenzo, ho trovato un fidanzato, ciao, ricapitoliamo, ciao, la situazione. Ma non ho capito, sai, il dottor Stranamore che ti metti a fare a trovare, no, fidanzati alle persone, perché, ma scusami, che? No, perché tu ne hai bisogno secondo me e hai però un profilo particolare. È molto particolare, vegano. O tendente al vegano, ma quello è il meno. Deve ma volere gli animali sul letto. Deve volere ma gli animali sul letto. Il tema è che quello è che è una scassa cazzi di prima. Questa è la questione. Che mentre tu sei lì con lei a fare una cenetta romantica, ti salta il gatto sulla tavola, poi c'hai il cane sul letto, i topi che corrono per la casa. Che, insomma, non è una cosa indecente, che non vengono ammazzati, esatto. L'altra caratteristica indecente di avere fidanzato è che non deve avere troppa voglia di scopare, cioè deve essere uno che non guarda YouPorn, non deve essere uno fissato col sesso, queste cose qua. Allora mi ha scritto l'altro giorno, dunque corrisponde tutto il profilo che ho fatto, e deve essere anche uno tendenzialmente non della Lega né di Fratelli d'Italia. No, aspetta, questo qua che è un medico, non lo so quanti anni ha, ce ne avrà 40, 45, 50, uguale, che cambia, dai. Cambia. Mi ha scritto, è un veterinario, uno di quelli che ha pure denunciato il governo per la questione del Covid, dunque più o meno ha le tue idee, più o meno, sì. È uno di quelli che pensa che c'è un terrorismo in atto, un'informazione, no, che vuole gettarci nel panico, eccetera. Perché non mi fai fidanzare con Daniela Martani? Sono vegano, il sesso quasi non mi interessa. Ti giuro, siamo Pasquale Mario Bacco. È un veterinario. Io sono vegano. Davvero? Il sesso quasi non mi interessa. Mai stato anche gli animali. Mai stato su YouPorn. Dormo sempre con gli animali. Mi sembra di essere perfetto. Pasquale Mario Bacco. Vallo a vedere. Vallo a vedere. Pasquale Mario Bacco. Magari è pure ben dotato. Pasquale Mario Bacco. Ma mi scriveste su Instagram o su Facebook, così lo valuto. Ecco. Esatto. Vediamo un po' che succede. Ma scusami, Cruciani, ma ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Ma oggi è l'ultima puntata? Sì, più o meno l'ultima puntata. Sì. Ecco, sì. No, come più o meno? No, l'ultima puntata della stagione, giusto? Ma non lo so, adesso vediamo. Non lo sappiamo. Sì. Ma scusami, ma io pensavo che tutti volessi fidanzare con me. Cioè, avevo questa idea, avevo intuito questa cosa. Abbiamo capito perché si invitava vegano sempre sta matta. No, abbiamo capito. A dormire con gli animali. Ma hai usato la radio per invitare sta matta sempre. No, ma col cazzo. T'ho sempre detto col cazzo. Mai, t'ho sempre detto col cazzo che rinuncio a queste cose qua. A parte che non abbiamo mai parlato in maniera approfondita. Ma chi è che di questo? Non lo so. Ma chi è? Non lo so chi è. Io sono io. Comunque, il nostro fidanzamento è da escludere. Io non ho mai voluto fidanzarmi con te. Primo, precisiamo queste cose qua. Secondo, ti ho trovato uno disponibile. Uno disponibile che ha un... perché trovare il profilo adatto a te è impossibile. Ma chi è sto pazzo? È impossibile. Non è vero. Ma appunto, quando? Nella notte dei tempi, dai, su. L'anno scorso. Da un anno. Come cazzo si fa una come te che non scopa da un anno? Allora, dai, su. Ma come? Quindi, ma dai, io scelgo. Non vado andando coglio, che mi capita davanti. Ma ho capito, ma ogni tanto una trombata se la deve fare, altrimenti si incartapecorisce la situazione. Ma guarda, che io l'altro giorno, 2 giorni fa, potevo benissimo farlo, perché è venuto mio amico che, insomma, con cui ho avuto una situazione, ci siamo baciati. baciati, ma non è successo nient'altro. E perché come baciati? E che avete fatto? Solo il bacio? Niente, sì. Una pomiciata, un pompinetto, niente. Cosa? No, ma che pompinetto? Ma col cavolo, cosa? No, non esiste. No, no, senti, no. Tu per esempio faresti mai un altro discrimine. In testa ce l'hai la parola pissing, sai che cos'è il pissing? Il mamma mia. Il pissing, sai che cos'è? Pissing, no, ma che schifo, dai, Cruciani, ma pure sta roba qua ti piace a te? Mamma mia, sei pervertito proprio nel midollo. Sì, su questo c'ha ragione, su questo c'ha ragione. Ma ti piace farti pisciare addosso? Mamma mia, su questo la matta c'ha ragione, però, eh. Ottimo, amica mia, ottimo! Ma chi è che dice? Dai, che schifo, Cruciani, veramente, ti prego. Sì, tu c'hai il tuo materasso pregno, impregnato di pipì. Ma che cosa? Schifo, ma che c'è? E poi ti lamenti. Ma si può fare anche in bagno, per terra, che c'è? Praticamente i cani e i gatti sono più sporchi di questa schifezza che ti fai fare addosso. Ma non ho capito, ma qual è il problema? Non ho capito, ma è ottimo dentro il bagno, dentro la vasca. Non ha tutti i torti la signora, però. Dimmi, la tua macchina puzza di piscio. Ma che c'entra? Non è che uno in tutte le situazioni si fa pisciare addosso o piscia addosso a qualcun altro, amica mia, che c'entra? Ma dai, ma che schifo, cazzarola, cioè un minimo di dignità, cioè, un ma che c'entra, dai, la dignità? Quando uno fa sesso la dignità non esiste, cioè non ma è no, che si... la perdi completamente, la perdi quando uno ti piscia addosso, cioè sei ma perché? Zerbino, ma peggio di, che ne so, di una aiuola di un giardino dove ci pisciano i cani, ma che c'entra questo? Ma qualcuno, a parte che l'umiliazione fa parte della sfera sessuale, volendo, dunque la parola l'umiliazione fa parte della... certo, l'umiliazione, la dominazione, queste cose, diciamo, che tu chiami perverse con una accezione negativa, fanno parte della sfera sessuale. Tu per esempio, no, Parenzo è perfetto per te, ma perché Parenzo non va su YouPorn, perché non va su YouPorn, devo dire, ma che non è vero. Posso dire, Parenzo scopa soltanto quando deve fare figli, ormai l'abbiamo capita questa cosa. Ma che cosa vuole sta matta qua? Ma che vuole sta matta? Ma sì, esatto. Ma tu pensa ai cani, ai gatti e a metterli in una stanza chiusa a chiave, ma tu scopresti mai con Fedez? Scopresti mai con Fedez, per esempio? Ma manco pagato oro, ma ti fai che scopo con Fedez? No, perché? No, assolutamente. Cioè, faresti la terza nella coppia tra Fedez e Ferragni? Sarebbe il top, sarebbe ma il top. Stai scherzando, vero? Tu in mezzo a Fedez e Ferragni, guarda, io pagherei per vedere questa scena qua, tu che trombi insieme a Fedez e alla Ferragni, sarebbe stato ma perché secondo te loro due trombano? Boh, non lo so, ho i miei dubbi. Beh, adesso cosa c'è di più? Adesso ce l'hai tanto con loro, adesso siccome non è che se non trombi tu non trombano nemmeno loro, scusa, ma che roba è? No, boh, a me sembrano più amici che marito e moglie, però vabbè adesso questa è l'accusa gravissima, ma quella sono fatti private loro, dai, tu chi se ne frega. Sono fatti loro, però la tua impressione è quella là, la tua impressione è questa. La mia impressione è un po' quella. Io poi nella tua campagna, ecco, aspetta, scusa, sono soci in affari. Sono soci in affari. Siccome guadagnano un sacco di soldi insieme. Vabbè, non è un crimine. Lei ha avuto una grandissima popolarità stando con lui in Italia, perché prima non la conosceva proprio nessuno. E dov'è il problema? E dov'è il problema? Però? Non ho capito perché a non può andare. A te ti conoscono perché sei una gattara. Eh? A te te conosco perché sei una gattara mezza matta, per forza, cioè, voglio gattara, dire, dov'è il problema? Una gattara sei. Una gattara sei, una gattara, una gattara. Io non ho capito una cosa, la Ferragni, perché ce l'hai tanto con la signora Ferragni? Adesso perché ha fatto pure lei, questa cosa straordinaria agli Uffizi, una cosa straordinaria. Beh, straordinaria, l'hanno smentita. Che il Colosseo e qual è i musei vaticani hanno fatto molto di più non avendo influencer di ma non ho capito che male c'è fare diciamo una pubblicità è agli Uffizi. È una boiata, lei è un personaggio costruito ad arte dagli Uffici stampa e poi i giornalisti che slecchinano, sbrodolano proprio gli cola la bava dalla bocca quando ma tu ce l'hai con lei, ce l'hai, sei un po' invidiosa primo e secondo io ce l'hai con lei perché indossa dei capi vabbè con lei, da prodotti animali, chi se ne frega? Prendiamo per vero che lei abbia una così grande influenza, no? Addirittura che fa smuovere i ragazzini per andare dagli Uffizi, io non ci crederò mai, cioè io voglio andare agli Uffizi a chiedere al direttore di farmi vedere gli ingressi di quel giorno. Vabbè, ma mettiamo che abbia questa influenza. Allora, quando lei indossa un capo in pelliccia, no? Allora, se invece di ammazzarne un milione di animali, siccome lei le indossa, ne ammazzano 10 milioni. Perché tutti quanti dicono voglio la pelliccia. Ma secondo te è un'assassina la Ferragni adesso, è un'assassina. Ma lei è una istigatrice all'assassino, certo. Ma istigatrice all'assassino, ma dai ragazzi, certo, ma ci sono, certo, ma tutti lo siamo, certo. Allora, tutti indossiamo dei capi in pelle. Ma siamo tutti ma istigatori tutti allora. Chi? Io non sono fare tavolini contro le pellicce quando sono 15 anni. Ma fai un po' di pissing, dai, ma fai un po' di pissing e via, passa la paura, dai. Ma che pissing, ma fa fatto in testa il pissing. No, in faccia. Senti, guarda, ti faccio dire una cosa, Cruciani, mo te lo dico, anche l'ultima puntata. Tu con me torneresti un ragazzo a posto se tu fossi con me. Ma questa ci sta provando. Questa è una proposta. Questa qua ci sta provando. Questa ci sta provando. Questa qua. C'è sta a provare questa. Scusa, ma tu andresti mai con Bissani, Gattara, per esempio? Avresti mai un rapporto sessuale con Bissani? Con signor Bissani? Sarebbe fantastico. Un rapporto sessuale tra Bissani e la Martani. Mamma mia. Ma tu sei pazzo. Cioè, e nemmeno se fosse l'ultimo uomo sulla terra, signor Bissani. A parte che non lo trovi il coso, che non si vede, c'è la pasta che gli casca sulle ginocchia. Ma cosa dice? Ma è vero, cioè, pesa 250 kg. Cioè, ma pensa... Adesso quello si incavola. Dici dove lo trova l'uccello. Non si vede niente, dai. Mamma mia, non c'è paura. Mamma mia. Mi fanno venire le immagini terribili. Scusa, pensa al rapporto sessuale tra Bissani e signor Martani. Signor Martani. Ma sto scherzando. No. Cioè, nemmeno se fosse l'ultimo uomo sulla terra, nemmeno se fosse l'ultimo. Ma no, assolutamente. Preferisco un albero, una pianta. Se fosse meglio una pianta. Parlo della luce. Ciao, Daniele, abbraccio. Ciao. Parlo della luce. Sì. Massimo da Roma, vai, Massimo. Capirai, a me mi metti dopo la Martani, sai come mi vanno a fanculo subito. Ma che ti dice la Martani? Dimmi, che c'è Massimo? Dimmi. Senti, David, l'altro giorno abbiamo toccato il fondo, minoranza silenziosa comunque. Buonasera. Sì, lo so. Allora, lo so, abbiamo toccato il fondo perché oltre il Brasile, pure quell'illetterato da Accademia di Lincei, del Grillino Palermitano, può fare un partito che io rispetto a lui sono Margherita Hack. Allora David, qui bisogna scendere in piazza. Perché cosa? Perché cosa? Lo so. Perché lo so, bisogna confrontarsi e mandare via sta gente. E io ho pensato una bella cosa, David, fondiamo un partito. Dimmi, io, te, Pietro la Corte, facciamo un capolavoro. Un capolavoro. Io non voglio fare partito. Già lo vedo all'orizzonte questo partito. Io non voglio fare nessun partito, dico caro. No, ma ragazzi, la cosa, Davide, la cosa bella è che se anche perdiamo ci sarà una delimitazione tra teste di cazzo e brave persone. E ti spiego perché. Ma chi sarebbero le teste di cazzo? Scusami, tanto per... te lo dico, sono... Perché la cosa bella del partito che si chiamerà Nessuna Pietà. Nessuna contro pietà. Armati, nessuna pietà. Ma nessuna pietà è una roba di estrema destra. Sembra Duterte. Per pulire le mascherine dice che ci vuole la benzina. Signor Duterte. Giuseppe, piano Orangina, una gazzosa, un tè freddo. Fammi parlare con David. No, ma non devo andare a prendere nessuna cosa, amico mio. Non devo andare allora, a prendere David, amico caro, io non faccio nessun partito. Ti posso dire, io non voglio smorzare il tuo giusto entusiasmo. Lui non vuole fare votare la feccia. Non vuole fare votare. Francesco da Bergamo. Aspetta, Francesco, che c'è Massimo? Sì. Dimmi, che c'è? Giuseppe, volevo dare le 5 categorie che non devono votarci. Posso darle? Dimmi, allora, chi? So quelli che guidano al volante col telefonino, so quelli che portano i ragazzini a giocare a pallone la domenica mattina e incitano alla morte, alla violenza, spezza il ginocchio all'alto ragazzino. So quelli che si sono inventati la parola radical chic, che altro non è una forma di frustrazione personale che hanno queste persone, dicendo radical chic agli altri, che allora soffrono dei loro insuccessi. Poi non vogliamo il voto di quelli uomini che si mettono i piedi di fuori estate invece delle scarpe. Non vogliamo il voto da un sacco d'altra gente. Io però volevo dire, ragazzi, no, devi andare a fare il culo. Francesco da Bergamo. Ciao Croc. Dimmi Francesco, dimmi. Allora, volevo aspettare una lancia a favore dei carabinieri. Quali carabinieri? Quali innanzitutto? In generale, o di quelli lì? Nessuno attacca i carabinieri, nessuno. Quelli della caserma oggettivamente sono indifendibili. Quelli della caserma non sono indifendibili, nessuna lancia da spezzare. Numeri uno. Ma vai a cagare, che numeri uno di che? Del crimine, numeri uno del crimine, quello è sicuro. Sequestravano la droga, rivendevano, si facevano festini con puttane. E beh, allora che vuol dire, scusa, che sono brave persone? Ma erano carabinieri, tu andresti incriminato. Esatto. Per l'esaltazione di queste puttanate. Forze dell'ordine non devono fare queste cose. Ma vai a cagare. Vai. Ciao. Voglio chiedere a Red Ronnie se questa trasmissione andrebbe chiusa o no.

pubblicherò da stasera, dalla chiusura della trasmissione, sì, l'atto, come ho già detto, l'atto che hai già fatto, sì, l'atto che hai già di autoquerela, di autoquerela nei miei confronti. L'autodenuncia, sì, che esiste. L'autodenuncia, mi sì. Autoquerelo, autodenuncia nei miei confronti. È l'unico modo per far finire questo programma, è autoquerelarsi a questo punto. Fermo me. Lì, Mauro da Messina, però sì. Prima di Mauro da Messina, grande ritorno di Maurone da Messina, da quello che leggo. L'ultima spennellata, non ci può essere l'ultima puntata, ragazzi, senza il Pappalardo che ci ha accompagnato durante quest'anno. Il generale, che non è più generale, è Pappalardo. No. Sì. Perché stiamo scoprendo che questo regime è un regime post-comunista, post-nazista. Questo è un regime post-comunista e post-nazista. Come post-nazista? Lo stiamo verificando. E il 12 settembre puntualizzeremo su questo punto. Ed ecco perché inviteremo la gente a ottobre a venire a Roma. Ottobre, e ci prepareremo bene per andare a Roma. Perché diremo che dobbiamo abbattere il nuovo nazismo e il nuovo comunismo. Quale? Che si è sviluppato nel nostro paese. Non ho capito se c'è il post-nazismo o il nazismo. Non si è capito bene. Se c'è il post oppure tutto, siamo tutto, durante il... Tu sai che sai cosa ti dico, Davide? Volevo dire una cosa a Pappalardo. Io sinceramente mi candiderei capolista con Pappalardo. Sarebbe straordinario, dimmi la verità. Sì, lo voglio annunciare qui. Se Pappalardo volesse, se Pappalardo volesse, lo so. Però se Pappalardo volesse, mi candiderei capolista col generale Pappalardo. Ma scusa, se deve finire in burletta, finisca in burletta definitivamente. Mi candidi capolista, Pappalardo. Capolista per i gilet arancioni. Lo farei, ti giuro, capolista in tutte le circoscrizioni. Tutte, magari no, in qualche circoscrizione. Fermeremo le vaccinazioni, signor Pappalardo, vai. Le vaccinazioni a ottobre non si faranno. Come perché si faranno? Entreremo in azione noi. Ma cosa? Entreremo in azione noi. Ma dove? Non si faranno i TSO, i trattamenti sanitari. Ma quello attenzione, fermo allora. Però. Glieli facciamo allora. Ah. Scusami, aspetta, vuole fermare i TSO. Qui c'è del marcio, caro ecco Davide. Perché. Ecco perché volete. Ecco perché. Vuole fermare i TSO. Ah, è tutto chiaro, tutto torna, tutto combacia, cioè, dell'ultima tu puntata. Tu dici che vuole fermare i TSO perché altrimenti a Ma settembre certo. Scatta, dici, no? Scatta. I servizi segreti disturbano questo video. Senti, ecco qua, ecco il TSO. Qualcuno di voi ha paura, qualcuno di voi è venduto, qualcuno di voi che si permette anche di intervenire a questo nostro video coprendoci di insulti e di insolenze. Qualcuno di voi invece cosa? È mandato dai servizi segreti, mandato dalla polizia politica che è mandato qui nel video per disturbarci. Anzi, mi meraviglio come mai il video di oggi non viene disturbato, solitamente disturbano il nostro video. E noi l'abbiamo individuato, ci sono anche delle donne. Pagate che chi? Entrano nel video e ci disturbano. Ma non disturbo. Io voglio dire a Pappalardo che quando uno fa un video ci sono i commenti delle persone. E i servizi segreti hanno altro a cui pensare, i signori dei servizi segreti. Voglio far presente a Pappalardo. Comunque, vabbè, ragazzi, chi se ne frega. Mauro da Messina ricorda a Pappalardo questa grande offerta. Capolista in varie circoscrizioni per i gilet arancioni. Sono qui, Mauro da Messina. Allora, finalmente a Messina, finalmente abbiamo saputo che abbiamo un prefetto. In che senso? Le fughe di massa dagli hotspot, dopo che in quarantena non sono stati, dopo che hanno mandato in ospedale i poliziotti e dopo che sono evasi dall'hotspot e entravano nelle case dei cittadini, una persona con un'intelligenza normale si aspetta che il prefetto tuteli i cittadini. Cosa fa la signora prefetto? Cosa fa? Dice che l'hotspot, che è abusivo al 100%, deve rimanere aperto. Ecco quello che abbiamo a Messina. Mauro da Messina decide per i cazzi suoi. Quindi a Messina sappiamo che da domani l'urbanistica non esiste più. Vabbè, non ce ne frega niente di quello, scusa, delle abitazioni abusive, Mauro, e vengono sanate. Mauro, dalla signora ministro, posso dirti che a noi di quello che succede a Messina, illegalità, non illegalità, non ce ne frega un cazzo. Volevo sapere da Mauro da Messina una sua idea su come gestire l'immigrazione clandestina. Da Mauro da Messina. Clandestina. No, Parenzo, mi sembra che da chiarire questa cosa. Oh, ti ricordi quella scusami. Di cazzo là? Ferma. Buonasera, grazie per aver chiamato. Buonasera e grazie per aver chiamato intanto. Scusa, Molte Mauro. Grazie. Per il tuo grado di cultura, tu saresti sistema, in questo governo. Scusami. Dove abbiamo saputo da un membro del governo che in Afghanistan ci sono le spiagge. Ma tu sei un disturbato. Sei un disturbato, da Messina. Stai facendo fare una figura di merda alla tua città. Pezzo di merda. Ma se uno dicesse dobbiamo fare il ponte sullo stretto, ma col cazzo, perché c'è questo da Messina, meglio non fare il ponte, perché c'è sta testa di cazzo, il ponte non sa da fare. Te li porti a casa e ti fai inculare dagli scrocconi negri. Ma sei un disturbato, disturbato mentale, disturbato sei. Tu sei un disturbato. Non è mai troppo tardi. Sentitela e ti prendi un pezzo di diploma. Hai capito, asino? Se un domani, il ministro delle finanze. Se un domani mi dicessero, mettilo a tacere. Stai a cuccia. Tu devi sapere questo. Se dicessero, facciamo domani il ponte sullo stretto di Messina e ci fossero i soldi, tu sei il più grande incentivo per non fare il ponte. Brutto coglione. Nessuno verrà più a Messina per colpa tua. Coglione. Tu sei una. Testa di cazzo, proprio perché non te ne vai a Monte coglione. Ma perché è finita così? Ma perché è finita? Sulla sette. Ma perché testa è finita? Testa di cazzo che non la vede nessuno, ma chi parenti ve la vedono? Ma perché? Non la vedono, ma chi parenti? Ma chi te l'ha tu detto? E quell'altro là, Hitler è uscito da McDonald's. Signor Telese. Testa di cazzo. Abbiamo questi che girano in Italia, che fanno quello che cazzo vogliono. Poi oltretutto, poi ci mettiamo le mascherine. Ma la colpa mica sarà di Telese, di Parenzo, se ci girano i clandestini. Loro sono i bagnini, perché lavorano quando non c'è nessuno, tutti lavorano quando vanno in ferie, gli altri lavorano tutti e due. Ciao Mauro, quindi. Ciao. I'm a vampire. How'd you find her? Stasera che carrellata ti ho regalato, caro David. Che carrellata ti sto regalando, Che carrellata, dimmelo. Che carrellata. Da incubo. Un incentivo incubo, in più per la tua denuncia. Da suicidio. No, ne ho presento un'altra dopo stasera. Ne avevo già depositata una. Stasera ne presento un'altra. Gianluca da Padova, vai Gianluca. Gianluca. Ciao, mi senti? Sì, certo, dimmi. Ciao Parenzo. Senti, niente, allora una notizia fresca, perché non te ne frega un cazzo, ma te la voglio dire. Dimmi. Allora, c'è stato l'ultimo processo nei miei confronti, il 21 luglio. Ma perché luglio. Cosa? Quale processo? Un altro sottoprocesso, Ci hanno ritirato la patente perché cosa? Non so, come mai. Un test sbagliato. Tutti un test sbagliato. Dice, ma come mai è stato in carcere? Ma no. Fammi parlare un attimo, perché dopo ci sta il vaffanculo, dai, ma non ho capito, ti hanno ritirato la patente per un test antidroga e tu dici che hai sbagliato il test? No, ho fatto il controtest immediatamente lo stesso giorno, il giovedì avevo... Vabbè, ma che vuoi da noi però, Gianluca, dimmi la verità. No, era soltanto per dirti che comunque non si sa se ho vinto o perso, nonostante che ho le prove della mia vittoria. Vabbè, allora? Cancelliamo questo. Il 31 agosto, Parenzo, ti ricordo che in Somalia erano stati indagati alti ufficiali. Prima cosa, e tu non puoi dire ma che perché tutta cosa? L'arma di carabinieri ho capito, per questa roba qua, sì, dunque? Ok. Dunque? E dopo un'altra cosa, i camionisti italiani, no? Volevo toccare sempre il discorso di un ragazzo che ha telefonato ieri, che ha demigrato la nostra classe, cioè la nostra categoria. Allora, attenzione, perché se i camionisti italiani ci fermano... Ma tu ancora puoi circolare nonostante il test antidroga che hai fatto? Puoi circolare o no? Ma la patente me l'hanno ridata. Te l'hanno ridata, sì o no? Sì, ma hanno fatto tutta una serie di danni. Vabbè, Paolo da Cuneo, vai Paolo. Paolo, sì, dimmi. No, già ti ho un po' insultato per messaggi, ma volevo capire, volevo chiedere una domanda. Ma a prescindere, sei sempre dalla parte dei carabinieri? Ma come dicevi qualche tempo fa? Io di principio sono dalla parte dei carabinieri come arma, come istituzione, come istituzione. Ma non vuol dire un cazzo, rispetto. No, certo che vuol dire, certo che vuol dire. Significa che ci sono decine, se non centinaia, quanti sono? 100.000 di carabinieri che lavorano onestamente, e voi state attaccando i carabinieri parlando di sistema, capito? Sistema. Beppe, ma a partire nel dire, io a prescindere sono dalla parte di qualcuno. Ma sì, ma che vuol dire? Ma è un modo di dire, non è che sono dalla parte dei carabinieri che si comportano male, questo è evidente, è una banalità dirlo, no? Dunque, dico che le istituzioni. Che sei dalla parte dei carabinieri, vabbè, non allora, che quelli che si comportano male. Ognuno ha le sue banalità. Luigi da Roma, vai, Luigi. Allo? Dimmi, Luigi, dimmi. Allora, intanto devi ricordare l'amico tuo che qui nel Lazio sono ripartite. Il virus ha ripreso a mille e non a causa degli italiani, perché ieri c'è stato l'intervento di una da Lega che ha detto che il virus cominciava a ritornare proprio a causa di stranieri, di clandestini o non meno clandestini. Però qui è vero che quelli del Bangladesh, del Pakistan e cose varie ci hanno riportato su. Ma secondo me, secondo me l'hai portato tu. Secondo me l'hai portato tu il virus, a Roma. Certamente, sempre dopo di voi. Sono sicuro che l'hai riportato tu, Parenzo Dio. Secondo me l'ha riportato lui il virus a Roma. E poi devi ricordare un'altra cosa, che dato che ho visto che i stupri a Milano cominciano a essere un po' troppo frequenti, specialmente sempre da parte di qualche clandestino, quelli che sono lui, che si cura lui, i parenti suoi, eccetera. Allora? Mi dici che dovrebbe solo che vergognare. Ma Parenzo è qui, glielo puoi dire tu a Parenzo, sta qui, eh? Certo, apposta, però dato che meglio che io anzi te dirò di più, dato che il mondo mi fa pure pena. Non c'è Parenzo. Stiamo a preparare anche una colletta, perché così quando lo troviamo l'angolo della strada gli diamo pure qualche cosa. Ma perché dovrebbe stare in bianco, capito? Ma chi sta all'angolo della strada? Non ho capito di chi parla. Di te, io, perché tanto te, solo così potevi sopravvivere. Però voglio spezzare una lancia a tuo così favore. Come? Che cosa io voglio così dire? Come? Che io voglio così come? Dire su di te. Lo sai perché? Perché tu c'è solo due alternative: o campi poco o mori presto. Allora, dato che te toccati, per motivi io mi di toccherei, natura, aspetta io mi toccherei, la cosa, mi toccherei la cosa sta prendendo una brutta piega. Mi toccherei a pelle. Fermo lì, fermo, hai rotto il cazzo, fermalo. Ti posso dire una cosa, vai a fare in culo. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Eccolo. Io mi eccito quando vedo una donna che si tira indietro i capelli e lascia intravedere una leggera peluria sotto l'ascella. Immaginiamo cosa ci sia sotto. Gabriele from Autostrada, I love my radio. Bravo, bravo. Crucia anima, vuoi chiuderci la zanzara senza dirci l'unica grande verità? Cosa è successo tra Parenzo e Gottardo? E diccelo, anche qua dall'Inghilterra, UK, Brighton. Vogliamo sapere tutto. Ciao ragazzi. Ragazzi, cosa vi devo dire? Insulti reciproci, soprattutto secondo me da parte di uno. E non lo so, tu non hai chiesto scusa e non vuoi chiedere scusa. Sì. Comunque, sì, sai, ci sarà, scusa, sarà qui l'anno prossimo, presente, per cui che cazzo vuoi? Allora, fermola. È giusto. Cosa? È giusto che anche i nani che saltano nel cerchio di fuoco abbiano uno spazio. E io, che sono una persona di sinistra, non devo attaccare chi è più debole. E quindi chiedo sinceramente e davvero scusa, non lo farò mai più. Scusami, e sono felice che l'anno prossimo tu ci sia, magari legato al guinzaglio come al solito, però e sarò io a portarti al guinzaglio, perché io ti voglio bene e chiedo, perché sono di sinistra e non si fa con le persone in difficoltà, non si fa. Allora ragazzi, fermi tutti, è uscita una nuova canzone, indovina chi canta? La signora Cantini, fa un po' rima insomma, non c'entra un cazzo ora. Ma la Cantini non è quella che fa mostra il culo in TV? Aspetta. Nuova politica dell'amplesso, la porno politica non è cesso, ma se sei un cesso mi scompensa, sparo una bomba, innesco. Ma che roba è? Vengo, da Montepulciano, vengo. rivoluzione del porno. Vendere di Milo senza mutande. Mela del peccato, stivale pitonato. Si fa il presidente su misura. Un porco decreto, legge paura. Giù le mascherine, giù le mutandine. Il mio nuovo regime. Alessandra, eccoci qui. Eccoci. Allora, dobbiamo dire la verità. Ha fatto, ha fatto vedere. Neanche un po'. Ha fatto, no, non ci siamo eccitati. Devo dire la verità, non ci siamo eccitati. Ha fatto vedere il culo da Chiambretti. Vi giù. Ma che? Ma che? È la rivoluzione. È completamente andata. Ha fatto vedere il culo da Chiambretti. Sì. Ha tirato fuori le mutande alla radio. È contro il femminismo. Su questo sono anche d'accordo. È a favore della prostituzione. Ha assaltato Conte. Ma a favore della donna sottomessa all'uomo. Si è data al porno ultimamente. Ma che devi fare di più? Non ho capito. Cosa vuoi fare di più? Il trattamento sanitario obbligatorio. Canto e vado al Quirinale. Ma al Quirinale a fare cosa? No, no. Mattarella, per favore, no. Ti prego, un programma che possa penetrare il cuore degli italiani. No, no, ti prego, il Quirinale non lo toccare, però il ti prego, no, è l'unica cosa che è rimasta. Già tanti problemi in questo paese. Mattarella non l'ha visto, l'ha subito. No, no, ma no, per carità, il sogno di Mattarella no, il sogno, l'ultima puntata, no. Il sogno della Cantini no. Su Mattarella no. No, il sogno su Mattarella no. Io però vorrei capire una cosa, cara Alessandra, è vero che tu sei contraria al pissing, ma l'hai già detto una volta, io non ci posso credere, cioè una è così, diciamo, rivoluzionaria come te, così, diciamo, come dice Pare Verenzo, come dice, che sei una svalvolata, una così una perversa, una se vogliamo. No, ma sono una persona con dei valori. Con dei valori? Cioè, con dei valori? Che vuol dire dei valori? Scusami. Cioè, sei anche pudica, sei anche pudica. Gli unici valori sono i valori bollati di chi ti porta in tribunale, altro che gli unici valori che tu vedi. Che c'entra sono il tribunale, scusa, non ho capito. Ma una che mostra il culo in piazza, ma come minimo va portata in tribunale, scusa, per oltraggio al pudore. Ma perché? Ma perché pudore, è la libertà. Oltraggio al pudore, ma quale pudore? Ma quale libertà è? Ma che cosa c'è di libero nel tirarsi giù le mutande? C'è di libero che io parlo senza filtri. Ma parli senza filtri perché sei una disturbata. Posso permettermi di fare questo? Parlo senza filtri per tutti. Per tutti, adesso per tutti, per te parli, non è che per tutti, dai. Per tutti, non ho capito perché il pissing non ti piace. Se fosse solo per me, veramente mi piace molto essere me. Rinascerai me tutta la vita. Cioè D'Annunzio si è reincarnato in me, ha scelto me. Ma non credo che D'Annunzio si sia incarnato in te. D'Annunzio, uno psicotico si è reincarnato in te. Se mai uno scusa, psicotico. Torniamo alla domanda fondamentale: perché il pissing no? Scusami, la domanda fondamentale perché? Dai, perché non fai pissing? Non è che non lo faccio, magari lo farei anche, non lo so, però la gente è ossessionata su queste robe qua che mi chiama, mi dice, mi rimandano messaggi assurdi, mi pongono cifre assurde per fare queste robe. Cioè ti offrono cifre, tipo che per fare pissing, cioè perché tu pisci addosso a qualcuno, ti pisci quanto ti offrono? Diverse migliaia, ma non me ne frega nulla, a me fa schifo. E perché ti fa schifo? Perché ti fa schifo? Non mi metto a fare una cosa del genere. E l'anal perché non ti piace? Lo lascia i froci. Sì. Non ho capito, i froci non sono normali per te, i gay? No, sono sempre gli studi, per carità, dall'antica Roma e tutto, però non è normale che sia normale oggi. Non è normale. Dato molta più valenza ai froci, ai culattoni, che non agli etero. Addirittura. E invece dovremmo addirittura pagare. Dietro un uomo etero dovremmo pagarlo, dargli un sussidio perché possa pagare le donne. Cioè addirittura dovremmo dare un sussidio agli etero. Sì. Un sussidio agli etero, questo è interessante però Parenzo, un sussidio agli etero. Ma di che posso chiedere una cosa? Di che cosa ti fai esattamente? Cioè quali cosa prendi? Dai. Un tempo era cocainomane, adesso pare di no, però secondo me significa che dovrebbe essere legalizzata pure la cocaina, secondo te quella buona? Certo, legalizziamo tutto. Questa è pazza totale, ragazzi. Questa è pazza totale. Sì. Dice anche che non è normale essere froci, mi sembra di aver capito, no? Normale, dovremmo essere, se no ci estinguiremmo. Se fosse normale non essere froci, ci estinguiremmo. Sussidio agli etero e non è normale essere froci. Vabbè, sussidio agli etero e sì. Froci. Scusa un attimo, che c'è Maurizio collegato? Leggo qua Maurizio. Maurizio è collegato? Maurizio? Sì, sono collegato, ragazzi. Ciao. Come stai? Come stai, Maurizio? Molto, molto bene, molto senti, bene. Allora, la signora... in maniera particolare. Scusa, la signora sì. Cantini, tu che sei un cantore del pissing, un grande amatore del pissing, un praticante del certo, pissing, certo. La signora Cantini inorridisce, dice che è una cosa, una zozzeria, le offrono un sacco di soldi, ma lei rifiuta. Cosa puoi dire alla signora Cantini per convincerla su questo fronte? Ma innanzitutto direi che la signora Cantini, io qui leggo, ha due lauree, sì. Ha due lauree, una sì. In relazioni internazionali, una sì. In comunicazione e giornalismo. Ma che c'entra? Però è un profilo di alto, è un alto profilo. E allora? Di conseguenza mi viene da pensare che forse quel lato, no, infatti è una contraddizione in merito, perché il suo lato borghese forse le fa impedire, no, nonostante faccia il porno, fermi tutti, non offendervi, non dirmi borghese, hai un'educazione caduta. Hai un'educazione borghese che ti piaccia o no, ce l'hai. E allora? E di conseguenza questa la potrebbe frenare, mentre invece è proprio il suo profilo alto che le dovrebbe far affrontare questo percorso. È il contrario. Ma tu poi tu vuoi, come dire, proporti, tanto non siete lontani, lei a Livorno e tu a Genova, cioè tu puoi proporti come naturalmente, cioè, come maestro, come volentieri. È una ragazza molto interessante e la trovo anche intelligente. Ma spiegale, spiegale ha bisogno di abbandonare totalmente anche l'anale. Perché no? Ah. Perché l'anale no? E che ne so io? Cos'è questa contraddizione? Fare il porno e non fare l'anale è una contraddizione di fatto? Giusto, giusto, no? Giusto. Cantini, rispondi. Signori. Cantini, rispondi. No, io sono aperta a tutto, chissà. Beh, sono aperta a tutto, non mi pare che... frontiere, sì, molto estese. Ho capito, però per adesso dici l'anale no perché lo lascio ai gay, pissing no perché mi fa schifo, non mi pare ai che sia per... Scusa, froci, sì, d'accordo, benissimo. Permettetemi di capire una cosa, permettetemi sì, 40 sì. Secondi di capire. Sì, abbiamo da una parte una sì. Signora, sì. La signora Cantini, nota per togliersi le mutande e altre performance. Sì. Dall'altra abbiamo su tre soggetti, da una parte la Cantini che sappiamo chi è, dall'altra abbiamo un maniaco che telefona e che vuole un appuntamento con la Cantini. In mezzo c'è Cruciani, il magnaccia. No, la storia è questa, abbiamo una svalvolata, Cantini, che si toglie le mutande, assalta il premier ancora, sì. E fa molto molto altro ancora, dice di essere una nobile decaduta, in realtà è una nobile caduta per terra, sbattuta la testa ed è diventata quello che è diventata. Dall'altra un maniaco che chiama la zanzara, un maiale, classico maiale, che vive di pippe, che non ha una vita e che telefona alla radio per avere per interagire con qualcuno. In mezzo abbiamo un conduttore radiofonico piuttosto famoso che si chiama Giuseppe Cruciani, che nella radio della Confindustria si offre di fare da tramite tra la signora svalvolata senza mutande e il maniaco sessuale che telefona alla radio. Ditemi voi se questa è una trasmissione che può andare in onda. Ditemelo voi. Scusami, Maurizio, sì, scusami. Ma certo che può andare in onda, David. Io non ho capito. David, può andare... David, io te l'ho già detto una volta. Io frequento solo donne, diciamo, di un certo livello sociale, di una certa coscienza intellettiva. E ti assicuro che godono davanti a praticare il pissing. Dai, si abbandonano, sì. Si abbandonano, perdono il controllo e godono. Cantini, ci stai o no? Cantini, mi sembra di capire di no. Tieni il punto, sennò sei debole. Tengo il punto, sto ridendo. Guarda, sei il padrino. Cioè umano che ha fatto Parenzo, sono troppo bello, stavo piangendo. Cioè, perché ce l'hai tanto coi ciccioni? Questa è fatta totale. Perché ce l'hai tanto coi ciccioni? No, dico, cioè, sopra il 25 del calco del mass body index, l'indice di massa corporea, sei sovrappeso, dimagrisci, cazzo. Se io ho una spiaggia privata, ma non è che lo dico io, come dicevo ieri da cerebro, non è che lo dico io, a modo che già una realtà, se una donna sovrappeso, pesa, brutta, non ti finanziano niente, se un uomo ricco troppo anche per mettere, però in generale... l'obesità va sconsigliata come la frociaggine. Ma ho capito come la frociaggine, non è che puoi mettere la frociaggine e l'obesità, vabbè ragazzi. Ciao Gatti, ciao, mi raccomando, in gamba, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Salvini, ma lei fa i bocchini. Every time I think that I'm the only one who's lonely, someone calls on. Crucio, forse anch'io ho lo stesso problema di Fausto da Milano, nel senso che forse anch'io ho il frenulo un po' troppo corto e ci metto molto a venire, e vorrei che David Parenzo facesse un approfondimento su In Onda. Grazie. Ma come si permette? Ma come si permette? Sì, sì, ha ragione l'ascoltatore, ci sono peli sulle tette, intorno al capezzolo esattamente. Io ne ho un paio, sì, li tiro via con la pinzetta. Ce l'hanno tutte, tutte. E qui è commovente, Filomena. E Simona. Simona. Allora ragazzi, volata finale dell'ultima puntata, Marco da Livorno. Marco da Livorno. Marco, dimmi Marco. Ciao Giuseppe, vi chiamo perché sono un po' preoccupato. Sono un po' preoccupato per il signor Parenzo. Perché cosa? No? Perché, caro? Perché sei preoccupato? Dimmi. L'ho visto un po' ingrassato, diceva che andava in palestra. No, ma è ingrassato moltissimo, come una bestia è ingrassato, no, posso mai, dire. Ma non è vero. È ingrassato come un otter, l'ho visto là su quel banco, lì su quel ingrassato. No, l'abbiamo già detto, sei ingrassato, non vuoi confessare, sei ingrassato, ti ho visto non molto è così. Ingrassato. Allora, domani, lunedì, pubblicherò sui profili ufficiali della Zanzara il mio peso, cioè mi peso e così lo vedete. È un effetto ottico dei vestiti, Giuseppe, veramente. Ma che effetto ottico? La cosa preoccupante sono anche le occhiaie. Perché? Comunque, le posso dire una cosa dal cuore? Perché lei non si fa i cazzi suoi? Perché lei chiama la radio della Confindustria per parlare delle mie occhiaie? Lei non ha nulla da fare. È un coglione. Ma lei non si deve preoccupare di me, si deve preoccupare per lei. Lei è un problema di questo paese. Lei è un problema perché anziché mettersi a lavorare, contribuisce con Cruciani alla distruzione di questo paese. Vada a produrre, che abbiamo un debito pubblico enorme. Vada a produrre ricchezza in questo paese. In che modo si allena con il signor Casalino, perché non dà risultati in questo. Cioè, beh, questo ha ragione, diciamo, però, detto a lei. Ha ragione però Marco, cioè, vede in televisione, tu racconti che vai in palestra, peraltro, esatto, tra parentesi, esatto, insieme a Casalino, lui guarda in televisione e non vede risultati, vede esatto, molto negativo. Marco da Livorno, scusami, esatto, dai una risposta, sei un personaggio pubblico, ti ha pizzicato, siccome vai anche in radio a parlare con i radioascoltatori, con gli ascoltatori, esatto, purtroppo per esatto, te, ricevi contumelie e osservazioni, tra le contumelie ci sono anche le osservazioni, e Marco da Livorno sostiene che sei ingrassato, dai una risposta pubblica a Marco da Livorno. Assolutamente no, ma lo direi. Un cazzo di Marco da Livorno. Intanto non so perché devo dire quel mio peso a Marco da Livorno, che io non so né chi sia, né il fatto stesso che chiami qua mi mette molti molti dubbi sulla sua intelligenza. Ma lasciamo per un momento stare questo, visto che è l'ultima puntata e non lo rivedrò, anzi non lo sentirò mai più in vita mia, quindi lasciamo perdere. Però lasciamo stare questo. Contattarla alla 7, ne chiederò, sì, chiederò il cartellette del peso. Non la fanno neanche entrare. Neanche nella via la fanno arrivare qua, neppure nella via la fanno entrare. Al signor Telese. Luigi da Frosinone, signor Telese. Luigi da Frosinone. Telese è una sciagura nazionale, diciamolo tranquillamente. È una sciagura. Luigi da Frosinone. Ottima persona, ma è una sciagura nazionale. L'ottimo Luigi Telese. Da Frosinone, prima o poi riveleremo i ritardi di Telese, cosa fa, cosa non fa. Dice, sono qui, in realtà è a Bologna. Vabbè, Luigi da Frosinone, vai. Vai, Luigi, dimmi. Pronto. Dimmi, Luigi, dimmi. Allora, no, io chiamo per un motivo molto particolare, che è quello di capire come si possa sparare addosso ad un'intera categoria, che è quella dell'arma dei carabinieri. Chiedilo a Parenzo che è pappe ciccia con la signora Cucchi. Ma la signora Cucchi, io volevo dire una cosa, l'ho già detto all'inizio, lo ripeto. A che titolo parla? Perché dovrebbe essere, diciamo, autorevole nel parlare dei carabinieri? Dovresti ringraziarla. Racconta la sua vicenda personale, va benissimo. No, i danni che ha subito, simbolo, va benissimo. È una vicenda simbolo. Ci sono una specialista dei carabinieri, una sociologa dei carabinieri. È diventata, ma che c'è? È diventata testimone, Luigi, suo malgrado, di una vicenda pazzesca che dovrebbe indignare tutta l'Italia. Una delle vicende più gravi della storia della Repubblica. Dimmi, e io qua chiudo e me ne vado. Aspetta, fermo, Luigi. No, no, aspetta, vorrei, quando uno va via, va via. Che aspetta, si accapigliasse fra poco, perché il concetto è questo qui. Io ho 55 anni. Mio padre era maresciallo dei carabinieri, è stato ferito in un conflitto a fuoco. Vabbè, che c'entra questo però? Aspetta, adesso spiego la motivazione di tutta questa storia. Vai, veloce, vai. mia madre ha preso un esaurimento nervoso per questa situazione qua. Ma è possibile che queste persone vengano additate soltanto quando quattro imbecilli, perché tali sono, si sono sovrapposti al sistema e hanno fatto quello che hanno fatto? Di arrestarselo, ma qual è il problema? Il problema di base, vabbè, il problema è sicuramente l'omertà, perché spesso vengono coperti, eccetera. Questo giù. Però io dico che è tipico, ma è tipico delle forze di polizia, cioè non è così, ma è normale. È molto grave quello che stai dicendo, è molto dappertutto, grave. Che è più difficile è scoprire grave. Delle cose che vengono molto commesse grave. Ma non è molto grave, è normale. È molto più difficile scoprire delle cose che vengono commesse all'interno delle forze dell'ordine piuttosto che nella criminalità comune. Mi sembra logico, cioè non è così complicato da capire, no? Dai, su ragazzi, non facciamo i santarellini, non facciamo quelli che nascono solo oggi. Dai, non dire cazzate, dai, forza. E quindi? Ma quindi nulla, ma non sto giustificando niente. Però volevo chiudere con Simona, perché Simona mi ha fatto gioire, mi ha fatto godere in questi ultimi giorni. Cioè, ha fatto questa proposta. È una bella ragazza di Roma che ha fatto una proposta a Parenzo esplicita. Ah, di Roma è? Sì, assolutamente sì. Ha fatto una proposta esplicita a Parenzo. E Parenzo non solo balbetta, anche se no, diciamo balbetta, è verso il no. È verso il no. Ma che balbetta? Verso balbetta, il no. Balbetta, sì. Come sì? No, sì o no? No, sì o no? No, no, no, no, no. A me pare assurdo che di fronte a una offerta di pompino più addirittura pissing, non so di che tipo, per tornare sull'argomento, si dica di no. Simona è qui con noi, eccoci qui, sì. Simona, eccoci qui. Ecco. Cruciani, buonasera. Buonasera, buonasera, cara amica. No, è una persecuzione. Allora, vogliamo dire anche le tue misure? Vogliamo dire anche le tue misure, Simona, tanto per essere chiari. Sei anche figa, diciamola tutta, Simona. Sei è anche una figa. Persecuzione, è una persecuzione. Allora, caro Parenzo. Allora, oggi è l'ultima puntata. Sì. E quindi ho chiamato per sapere se hai scelto sì. Come meno male, sì o no? Sì o no, okay. Davide, sì o no? Sì, alla mia proposta. Come no, sì? No, allora, sì, la situazione... Sì. No, questa è l'altra. Allora, sai la situazione politica... Dove sei? Dove sei, Simone? In dove un'area sei? Di dov'è? Servizio dell'ENI, perché mi devo incontrare con un camionista. Ma veramente, stai dicendo? Ma lei è una prostituta, quindi, scusi. Parlare? No, no, no, no. Io ci parlerei pure, però... Ma quindi è una prostituta, lei, signorina, scusi? No! No. No, no, perché io mi trovo qui spesso, diciamo, mi incontro qui con chi dico io. Ma io non ho capito una cosa, Simona, perché io ti conoscevo tempo fa, poi non ti ho perso di vista. Tu alla fine fai la zoccola, questo è il punto fondamentale. Ogni tanto No, fai un altro mestiere, Certo, certo. Però ogni tanto ti fai pagare. Certo. Ma certo, come certo. Certo, come certo. Ma non è certo, cos'è certo? Però non ogni è normale, tanto ti fai pagare e addirittura qui vorresti vorrei. Certo, sto proponendo a Parenzo, sì. Però gratuitamente. Sì. Un pompino a sì. Parenzo, sì. Perché mi sembra, insomma, un uomo poco affidabile, poco erotico. Beh, questo, quindi io volevo dare una svegliata, ecco, devo dare una svegliata. Ma che ne sa lei? Scusa, la conclusione di questa fellazio, com'è la conclusione, Simona? Come sarebbe la conclusione di questa fellazio? Allora, io potrei dare anche il mio numero di telefono. No, ma la conclusione, dico, di questa fellazio con Parenzo, come sarebbe dal punto di vista pratico? Dal punto di vista pratico c'è anche il pissing finale. No, sì, pissing finale. Ma non mi interessa. A me questo articolo, francamente, vi chiedo scusa, vi ringrazio, ma non mi interessa. Cioè, pissing la signora è fatto da che... te o subito? Non ho capito, cioè addosso a te oppure che tu fai a lui? Ma io non voglio né fare né ricevere nulla di tutto questo. Ma che l'uomo lo fa addosso a me. Sì, ottimo. Senta, questo, signora ottimo. Cara, signora cara, per tutte queste pratiche, rivolgersi a un altro indirizzo. Non mi chiami all'alario, per piacere. Il finale è con l'ingoio? Il finale è con l'ingoio? Certamente, il finale è con l'ingoio. E lui ti sto dicendo, lo faccio tutto gratuitamente. Tutto gratis. Invece, se qualcuno ti chiama, quanto chiedi? Dipende anche la location, dipende. Ma ti capita di farti pagare? Di 300 euro, non di meno. Succede di farti pagare? Ti succede? Succede, certo che succede. Ma certo, evidentemente hai bisogno di soldi. Ogni tanto riesci a farli, no, in questo modo. No, perché è anche giusto che l'uomo, se si vuole anche soddisfare, è giusto anche che paga. Capito, no? Davide, ma può dare il numero di telefono? Secondo te? No. Diamo un numero di telefono. Non ho problemi a dare il numero di telefono. Sì, Parenzo, pensaci. Sì. Perché io poi voglio dire, aspetta, innanzitutto la tua telefonata, perché ora darò il mio numero di telefono, che sì. È vero, che sì. Cruciani lo sa, che sì. È vero. Ma la chiameranno migliaia di maiali. Dai questo numero. Prima. Allora è 347. Poi? 93. Sì. 47 084 084. Ma lei si sta mettendo in una brutta storia, le posso dire? 300 euro di base. Certo. 300 euro di base, ma si può mandare pure WhatsApp, tu, o bisogna chiamare? Ma sai quello che ti sei perso, perché tu non dovevi pagare niente, era tutto gratuito. È sfruttamento della prostituzione, Non credo proprio, credo che tu dici che è istigazione alla prostituzione questa roba qua, no. Assolutamente sì, si sta commettendo un reato. Ah no, noi facciamo incontrare dei desideri, cioè la facciamo l'incontro di vari desideri. Certo, cioè, non gli uomini sono tutti insoddisfatti. Tu dici? Certo. Certo, gli manca sempre qualche cosa. Eccomi comunque qua. Ultima chiamata, David, ultima chiamata. Voglio dire una cosa, ultima chiamata. Ultima chiamata. Sì o no, David? Sì o no? Sì. È registrata, okay. È la voce registrata, era la voce registrata, non ero io. Sì. È registrata. Hai detto sì, se vuoi ti faccio parlare col camionista. Ma chi è sto camionista? Grazie. Sì, sto qui nella piazzola dell'Eni. Ma questo qua paga o no? Questo mo si sta a prendere un caffè, lo vede la macchinetta. Ma non ho capito, paga o non paga questo qua, Simo? Non lo so, ancora devo iniziare a crociare. Sì, non ma come so. L'ha incrociato? Non ho capito. Ma lo incrocio perché qui ci stanno, lo so il punto, no? Ah, vai apposta lì per farti pagare? Ma certo, lo so, sono sempre gli stessi. Ma come sei finita così che c'è bisogno di soldi? Spiegami, come sei finita così? No, non è che ho bisogno di soldi, è così anche un divertimento. Roba e in più c'ho... un reddito, certo. Cioè tu ti diverti come una matta, perché io so certo. Che tu ti diverti come una mazza. E in più, e in più a questo certo. Punto ogni tanto è una forma di reddito. Certo, sempre certo. Capito? Tutto certo. Certo. Dai un po' le tue misure, Simona, scusami, le tue misure. Ma no, guarda, io sono alto 1,80 m, sono altissima, magra, sì. Porto una 40. Sì. Vabbè, evviva. C'è una terza di seno. Terza, sì. Culo? Sì, culo giusto. Giusto. Beh, giusto. Insomma, ma giusto che vuol dire? Un menù, ma cos'è il menù, scusa, non ho capito, cioè, il menù del ristorante. Sei una bella donna, c'hai più sì. Di 40 anni, quanto c'hai? 45, sì, quanto sì. C'hai? Sì, bravo, 45, sì. 45 anni. Vabbè. Ma e quindi dov'è la gabola? Qual è il tema? Dov'è il problema allora? No, ma non c'è nessun niente, problema, infatti. Ti cioè, sto descrivendo come sono fatta per farti capire una persona ciò che è detto. Ma una normale non telefona alla Zanzara, non si mette in vendita all'asta in questo modo. Per capire cosa hai perso, mi sto descrivendo. Ultima chiamata per Parenzo, ultima ecco, puntata ultima, e ultima avanti, chiamata. Sì, sì o no? No? Sì o no? Sì, no, no, sì, no. Ci penserai durante l'estate. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Simona. Allora ragazzi, vi ricordate quell'albergo, non mi ricordo dove, credo Avio, una cosa di questo tipo, che è pieno di cimeli fascisti, eccetera eccetera. Addirittura penso, se non ricordo male, il sindaco dovrebbe essere proprietario dell'albergo di questo paese, con tutti i cimeli fascisti, i motti del ventennio, caro David. Ovviamente il mitologico Falcetti Martelli è incazzato nero. Ottavio, buongiorno. Sì, buonasera. Senta, io vorrei parlare col vostro direttore responsabile. Mi chiamo Cosimo Falcetti Martelli. Adesso non lo trova, però. Non arriva, c'è domani. Appena domani. E non c'è nessuno che ne faccia le veci? No, c'è il fratello. Mi passi il fratello? Sì. Pronto? Sì, buonasera. Chi è che parla? Io sono Cosimo Falcetti Martelli. Sì, mi dica. E io sono un vecchio... Mamma mia, che frastuono tremendo. Lei mi sente? Sì, mi dica. Io sono, dicevo, un vecchio partigiano dell'associazione Partigiani. Sei uno bello stronzo, ve lo dico io, perché a me ha già rotto il coglione a telefonarmi. Ma come io si nella mia vita come si permette? Che vuole. Lei come si faccia i cazzi suoi. Come si permette lei di dire cose ecco. Simili? Noi abbiamo combattuto per la libertà. Però posso dire una cosa, uno può esporre dentro l'albergo il cazzo che vuole, sì, ma... è l'albergo a Temù, provincia di Brescia. Ma questo rompi coglioni, sto Cosimo Farchetti, ma che roba è uno dei partigiani, hai visto? Cioè, ma... piuttosto vecchio mi sembra, piuttosto vecchio. E ci avviciniamo alla fine, David. Ci avviciniamo alla fine. Fermi là, però. Fermi là, però. Come te la immagini la fine, Carlo? Come te la immagini la fine? La fine di una naturalmente, trasmissione. Naturalmente, una trasmissione come questa non può che finire o con la morte, naturalmente. No, morte, insomma, tu dici la morte, dici la morte. La morte dei conduttori, naturalmente. Sarebbe molto. In particolare di un conduttore, naturalmente. No, beh, naturalmente. Quello che parla romano ma sta a Milano, naturalmente. Ma la morte come? Come te la immagini la morte? Ma io immagino naturalmente o qualche ascoltatore che è preso da un raptus, un napoletano, uccida, dici, naturalmente bisogna portarlo, uccida, bisogna portarlo, sì, uccida Cruciani. Questo sarebbe molto sensazionale e gioverebbe moltissimo al programma. Poi sarebbe per morto il futuro, programma, a futuro naturalmente morto, però si risparmierebbe moltissimo in termini di budget, naturalmente. Cioè rimarrebbe la memoria, naturalmente, da vendere la a peso morte. D'oro, dici, da vendere a peso d'oro. Beh, i diritti, dai, tutti i diritti. Le serie, dici, le serie, dici, le serie. Bellissimo, i diritti per Radio 24 sarebbe un business. Anzi, consiglierei naturalmente ai vertici di Radio 24 di utilizzare un assassino in diretta. Fermi tutti però, Donato! Giuseppe, ti sento benissimo, straordinario, dimmi. Di a questo coglione che è a fianco che ride, fa l'imitatore, no? Chi sarebbe? Di fare un pianto, di piangere perché cosa? Perché in queste ultime ore, benché la cosa possa sembrare oramai una cosa normale, oramai regolare, no? È stata violentata una nostra figlia di 24 anni per mano di un senegalese, la violentata. Questo è vero. E a me queste cose qua, diciamo, questo senegalese che è venuto a violentare è una ragazza, è venuto da cui violenza gli rimarrà sulla carne per tutta la vita, no? Sì. Vorrei sapere se pagherà qualcosa come io pago. Io per aver detto una volta che il Papa era un sono ancora qui tremolante, con rischio anche mia figlia che ha la paura che mi vada in galera. Capito, per una causa speriamo che purtroppo potrebbe non aver fine, il fatto di aver offeso il Papa. Allora certo. Quindi io per aver chiamato sappiamo, dunque? Ho pagato. Voglio sapere, questo senegalese, se paga qualcosa, questo senegalese che ha preso una ragazza italiana e l'ha violentata, vorrei sapere se c'è una legge che consente che questo senegalese paghi fino all'ultimo minuto tutto quello che ha fatto, violentato da uno sporco negro arrivato clandestinamente grazie alle leggi. Ma non è uno che sia nero. Che c'entra che sia nero, dai, è arrivato qui clandestino, ha violentato una, andrà in galera spero per tutta la vita, ma che c'entra sporco negro, dai, su, Donà, non mi rompere. Ma cosa c'entra? Ma io lo chiamo sporco negro non perché io mi sento superiore, per l'amor di Dio, è una rabbia. Ma avete visto questo Italia in che condizione è stata in che condizione comunque vai, c'è degrado, ma in che condizioni sei tu, in quali condizioni sei tu sei in condizioni terribili, tu mentali, tu per quanto riguarda il Papa dimmi, Papa lui si sente addolorato del fatto che Erdogan, il grandissimo nemico dell'Europa, si è presa quella chiesa che all'epoca di Costantinopoli, no, prima era cristiana, poi è diventata per 86. Ce l'hai con Erdogan? Mamma mia, quanto Erdogan! Mamma mia, Erdogan dovrebbe essere messo in galera, ammanettato! Ciao Donato. Caro Parenzo, che dobbiamo dire? Siamo qui. Che vogliamo dire? Che è tutto finito! Ragazzi! No! Grazie a tutti, naturalmente, in ordine non di apparizione. Certo. Pietro La Corte, Alessandro Longoni, Andro Mercù, così come mi vengono in mente, Riccardo Poli, Matteo Ramelli. Grandi, e tutti quelli grandi che hanno fatto questa stagione. Ciao ragazzi, forse il 7 settembre se me va. Ciao. Forse. Italiani!